Radio Wombat, la fuga del gatto un po' in ritardo, 17.08, ho avuto qualche problemino tecnico, ma ci sono arrivata questa domenica pomeriggio da passare insieme, spero che già foste in ascolto di Radio Wombat. C'erano un po' di repliche, un po' di trasmissioni anche di altre radio, c'era, mi ha preceduto Le Dita Nella Presa, trasmissione di Radio Onda Rossa che abbiamo rimpallato, rilanciato volentieri, e invece mi seguirà un'altra trasmissione di un'altra radio amica e sorellina, Radio Spore di Bologna, con la trasmissione Tinala, che si occupa di letteratura e cultura spagnola, iberica, insomma, e quant'altro, ma la sentiremo oggi e la sentirete anche in replica nel palinsesto. Infatti, se date un'occhiata al palinsesto speciale, che ormai si è esaurito, almeno quello di questa settimana, con oggi, visto che siamo a domenica, insomma, però avrete notato che ci sono state un po' di novità, oltre ai contenuti che ci arrivano da noi di Radio Wombat, ma anche dagli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat, che continuano ad arrivarci, e per questo vi ringrazieremo proprio sempre all'infinito. Ecco, oltre a questi contenuti si sono aggiunti anche dei contenuti per l'appunto di altre radio sorelle che in questo momento più che mai sentiamo vicine e abbiamo voglia di rilanciare, e quindi anche le altre settimane un po' abbiamo fatto così, abbiamo trasmesso un po' di assemblee nazionali sulle varie radio, Radio Onda Rossa, Radio Blackout, Radio Uci Roma e Radio Onda d'Urto, ma anche alcune trasmissioni o contributi che ci parevano interessanti. Ecco, Da questa settimana abbiamo iniziato un po' a dare degli spazi fissi a questo tipo di contenuti provenienti da altre radio, e continueremo a farlo nelle prossime settimane, quindi aspettatevi altre voci oltre alle voci dei Wombati e delle Wombatesse, che ormai penso inizierete a conoscere, e vi faremo conoscere altre voci, insomma, che forse già conoscete, ma se no le imparerete, ecco, anche tramite i nostri rimpalli, per l'appunto i nostri rinvii. Ecco, dopo di me, poi, dicevo, Radio Spore, che fra l'altro forse vi sarete accorti, stiamo anche dando dal lunedì al venerdì il radiogiornale a cura di Radio Spore, ma con la collaborazione anche di altre radio come Radiogramma, e insomma di Radiogramma di Genova, Buridda, e un po' nel nostro piccolo anche noi stiamo contribuendo, questa fratellanza e sorellanza continua. È un coordinamento che ci stava particolarmente a cuore segnalarvi e spero che apprezzerete. Dopo di me, appunto, dicevamo Tinala e quindi sì, un contributo da Radio Spore, ma poi mi raccomando, alle 7 rimanete sintonizzati, perché c'è la solita diretta quotidiana di Radio Wombat, questa volta tutta nostra, come dire. Beh, non è vero, i contributi arrivano da ovunque, però insomma, diretta che andrà avanti fin verso le 21, forse un po' dopo, insomma, e vi terrà compagnia in questo inizio di serata, e poi le nostre solite repliche. Quindi vi invito a dare un'occhiata e a rimanere sempre così in ascolto di Radio Wombat, e dare un'occhiata al nostro palinsesto che si aggiorna continuamente. Stasera decideremo e pianificheremo il palinsesto della prossima settimana, come ormai sta succedendo un po' tutte le domeniche sere, insomma, che decidiamo il palinsesto della settimana successiva. Ma iniziamo con la fuga del gatto, che già abbiamo perso troppo tempo. Fuga del gatto che, vi ricorderete, da qualche tempo sta leggendo il appuntate L'affare Vivaldi, romanzo storico di Federico Maria Sardelli, e quindi mi accingo a leggervi il capitolo numero 7, quinta puntata quindi di questa lettura ad alta voce appuntate, e intervallerò come sempre con della musica ovviamente di Antonio Vivaldi, ma che ve lo dico a fare, E in particolare gli ascolti di oggi sono alcune arie tratte dal primo e il secondo, anche il terzo atto di Catone in Utica. Venezia, giovedì 16 aprile 1778, Campo San Benedetto. Ehi, lassù dal balcone! Ferma, ferma, non tirate! Perché che succede? Che qua si è sciolta una fune e sta per cascare tutto da un lato. Presto, Bastiano, chiedi in quella bottega di un caffettiere se ci mandano un garzone ad aiutarci. Volo! Ehi là, perdonate, padrone, avete un giovane da mandarci a dar mano, di grazia? Stiamo issando su delle merci per l'abate canonici e... Di nuovo? Che mai avrà da farci con tutta quella roba? Dio solo lo sa. Nane, corri a aiutare questi giovani. Grazie, padron caro, servo vostro. Ehi, di lassù, allentate un poco a dritta. Tu sciogli da questo lato, presto. Bepi, caffettiere, sortì fuori dalla sua bottega per osservare quel bel trambusto. Tanto quella mattina non si era visto ancora un cliente. Dalla bottega di Filippo Barbieri si fece sull'uscio il signor Pancrazio con la schiuma sul viso. Visto, caro Bepi, anche stamani grandi lavori per il signor abate. Caro Pancrazio. Ogni giorno flusso e riflusso, non vorrete mica che quel pover'uomo resti sguarnito? E ditemi, figliori cari, che si carica oggi di bello? Questo gran baldacchino che fra un po' ci cade in testa è un quadro con tanto di cornice che peserà quanto due uomini. Poi là ci sono due casse con dei vasi antichi che dice vengano addirittura da Costantinopoli. Boh, sarà, ma io so solo che pesano un accidente e che per caricarli manca poco si rovesciava la barca. Perdoni, signoria. Tira su adesso, Nane! Un altro quadro del Correggio era già presso il signor abate Matteo Luigi Canonici, che cedette lo poscia al signor principe Chigi. Era esso stato di una contessa Cassola in Reggio, che lasciò lo in legato a un conservatorio della città. Da esso avevalo avuto il suddetto abate Canonici, che avevalo riconosciuto per originale del Correggio. Ho acquistato dal signor abate Matteo Luigi Canonici, ex gesuita veneziano, un'antica sottocoppa d'argento del peso di libbre 10, cioè once 3 a peso d'orefice. Di queste sottocoppe se ne dà contezza di due, e sono quella dell'abate Canonici e un'altra esistente a Roma nel Museo Cristiano della Libreria Vaticana. E difatti, questa raccolta di medaglie antiche era una suppellettile rarissima e copiosissima, e non son 2 anni che ne aveva fatto l'acquisto l'abate Matteo Luigi Canonici, veneziano. Ma dopo stabilito il contratto, affinché così ricco e pregevole capitale radunato da un cittadino non sortisse dalla patria, si esibì di rilasciarlo ai signori senatori per lo stesso prezzo da egli già sborsato, che fu di scudi 1500. Vedete, caro Pancrazio, che bel mestiere fa fare il gesuita. Non c'è dubbio che egli sia un gran sapiente e noi degli sciocchi. Questo se ne sta in casa sua tutto il giorno, senza muovere un dito, e gli arrivano statue, libri preziosi, gemme, vasi e pitture da ogni parte del mondo. Ma come diavolo farà a pagare tutto questo ben di Dio? Come non lo sapete? Avvicinatevi qua. Paga la compagnia col suo tesoro. Hanno pelato migliaia di gonzi facendosi prestare i soldi e tenendoli buoni con 2 lire di interesse, finché non hanno accumulato un tesoro favoloso che fa impallidire il Gran Muftì. Oh, Thank you. Il 7 febbraio di 10 anni prima fu una giornata plumbea. Il cielo era coperto di nubi nere che per tutto il giorno avevano scaricato fiumi d'acqua rendendo le strade di Parma un pantano. Le carrozze barcollavano con la melma a mezza ruota e chi aveva la sfortuna di andare a piedi era certo di infangarsi fino alle ginocchia. A bordo degli sterzi, a 2, a 4, a 6 che si vedevano in strada, era facile trovarci dei preti, per la precisione gesuiti. Loro sì che viaggiavano comodi, mica come il povero inquisitore Ciacchi, che doveva andarsene a piedi fra le pozzanghere, imprecando e masticando veleno. Ma i lussi dei gesuiti avevano le ore contate. Ne avevano avuto sentore da tempo. L'aria che tirava per loro non era buona. Aveva iniziato la Francia, 4 anni prima, a cacciarli via. Poi era stato il turno della Spagna e le due Sicilie. Evidentemente il cerchio si stringeva. Ma non credevano che il governatore di Parma, il ministro Duttillo, sarebbe arrivato a tanto. E invece, alla mezzanotte precisa di quel 7 febbraio, un magistrato togato, munito di decreto di espulsione, si presentò ad ogni collegio, accompagnato da un drappello di guardie armate. I religiosi, che non erano stati così furbi da prepararsi al peggio, ebbero solo poche ore per sbaraccare tutto, salire sulle carrozze ed espatriare verso Bologna. L'abate canonici no. Come avrebbe potuto il fine erudito, il direttore dell'Accademia dei Nobili, il precettore della più scelta aristocrazia parmense, esser cacciato nottetempo come un briccone? No, no, è impossibile. Cospiratori contro l'ordine dello Stato, affaristi spregiudicati, aspiranti al dominio universale. D'accordo, i gesuiti erano un'erba infestante da sradicare, ma il canonice andava cacciato coi guanti bianchi. Ecco perché in quelle ore fredde, convulse e drammatiche, mentre molti suoi confratelli legavano bauli incalzati dai gendarmi, lui si trovava fra i morbidi velluti di Palazzo Ducale, a quattro occhi, con Duttillo. Questo salvacondotto vi permetterà, inoltre, signor abate, di conservare intatta gran parte della vostra raccolta di antichità. Il resto, secondo l'inventario già concordato, rimarrà qui a Parma. Quanto a voi, sarete accompagnato con ogni riguardo verso la destinazione che vorrete scegliere. Venezia. Benissimo, do ordine di servirvi. E dite, caro marchese, potrò disporre dei miei averi e delle mie obbligazioni? In verità, secondo il decreto che ho emanato, ogni vostro avere deve essere trattenuto qui, in Parma. Ma ho deciso che con voi, in virtù dei servigi che avete reso a tutta la famiglia Borbone, userò un particolare riguardo, lasciandovi disporre pienamente delle vostre sostanze. Benedica il Signore mille volte la vostra amorevole clemenza. Bene hanno fatto a cacciarli da mezza Europa. Sì, ma che è servito? Eccoli qua, spretati e pieni di quattrini a continuare come prima i loro intrighi. Volete sapere a quanto ammonta il capitale dell'abate? Avvicinatevi qua, che non ci senta nessuno. Il caffettiere e il barbiere quella mattina avevano il loro bel diversivo. Tanto le botteghe erano vuote, e che c'è di male a fare un po' di innocente ciaccola alle spalle del prossimo? Mentre conteggiavano accuratamente i soldi nelle tasche dei gesuiti, dalla salizzata del teatro sbucarono in campo San Benedetto due gentiluomini preceduti da un servitore. Si dirigevano verso il palazzo dell'abate, serio in volto e a passo svelto. I due ciarloni interruppero il loro gran consiglio per seguire la scena. I gentiluomini gli passarono davanti senza degnarli, poi si infilarono dentro al portone, seguiti con lo sguardo dai due che allungavano il collo. Una volta saliti al piano, un servitore di casa li accolse e li condusse nella grande sala della biblioteca. Qui l'abate canonici gli si fece incontro a braccia aperte. «Miei cari, ma perché vi siete voluti dare questo incomodo? Voi mi fate grazia, ma non merito così grande onore. Prego, accomodatemi in questa mia umile dimora. Gradiscono caffè, cioccolatte? E di là portate qualche rinfresco a questi gentiluomini. Ma che onore, che grazie son queste. Sedete, sedete. Che si dice di bello a Palazzo Corner? E l'eminentissimo vostro zio Marco, come si trova a governare la diocesi di Venezia? Ah, che uomo, pensate che l'anno passato? Signore, l'onore è tutto nostro. Grazie delle vostre buone accoglienze. Sì, la nostra famiglia sta bene. Il nostro zio Marco, che ci invia oggi da voi, vi manda tutti i suoi migliori saluti. E adesso, se non vi rincresce, tronchiamo un momento i complimenti e veniamo al nostro affare. Oh bene, sì, via, mi rallegro che la vostra famiglia stia bene, ringraziamo Dio. E la contessina Livia, si porta bene? Me la ricordo una fanciulla così piena di brio che... Sì, molto bene, anche ella sta bene. Voi siete così cari a occuparvi della nostra famiglia, vi ringraziamo, ma vogliate perdonarci, signora Abate? Io e mio fratello siamo venuti qua proprio perché nostro zio Marco vi ha trovato così gentile e disponibile a trattare l'acquisto della biblioteca che fu del nostro avolo Jacopo Soranzo. E date le premure che attendono la nostra casa, vorremmo chiudere al più presto l'affare nel modo che ci auguriamo più vantaggioso per tutti. Come no, come no? Ma certo, con sommo piacere vi ascolto. Parla tu, Alvise. Parlerò io, Girolamo. Vedete, signor Abate, per certo sapete che quando la buon'anima del senatore morì, orsù 20 anni, mi pare, 21, corresse Pignolo il fratello. Sì, ecco, 21 anni fa, il suo patrimonio fu diviso fra le due famiglie che ne avevano il diritto: i Marinzorzi da San Severo e Corner della Casa Grande a San Maurizio. Purtroppo anche la biblioteca fu divisa e adesso so tutto, risparmiate il fiato. E so anche che avete iniziato a vendere i libri a stampa di quella augusta collezione senza farmi avvisato ed è stato un peccato perché io potevo sovvenirvi con grande disponibilità, ma adesso vedo bene che è tardi. Ma no, abate carissimo, furono i nostri cugini a voler precipitare le cose. D'altronde quella era una parte del legato su cui noi non... Male, molto male. Sapete che così la collezione del vostro caro avo ha perso gran parte del valore che gli proveniva dalla sua unicità e completezza? Bisognava pensarci per tempo. Male, molto male. Che posso mai fare io adesso? Signora Abate, siamo qui presso di voi per distaccarci da un pezzo del patrimonio di famiglia con gran dolore. Non ci umiliate ancora di più. Quel che fu fatto ormai è fatto. Guardiamo al presente. Per carità, guardiamo al presente. Voi mi onorate con la vostra visita e io sono al vostro più completo servizio per la grande venerazione che ho della vostra gran casa. Guardiamo al presente, sì, guardiamo al presente. Volete vendere? Che cosa? Qualche pezzetto sparso di quella veneranda collezione? Signore, non ci canzonate. Come nostro zio Marco vi ha premesso con la sua lettera, si tratta dei codici manoscritti di casa Soranzo. Checco, porgi il catalogo al signor Abate. Il servo sciolse i lacci di una grande cartella di cuoio che aveva fino ad allora tenuto sotto il braccio e tirò fuori 3 volumi manoscritti. Canonici estrasse l'occhialetto dalla tasca, se lo posizionò sull'occhio sinistro, arricciò il naso adunco per tenerlo stretto e in un attimo si trasformò in un gallinaccio. Oh, catalogo di manoscritti in foglio A2 di settembre 1745, fatto da me, Francesco Melchiori, da Uderzo. Scorse più e più volte quelle pagine nel silenzio assoluto e interminabile. Sfogliava su e giù quei volumi e intanto prendeva nervosamente appunti, scrivendo con un lapis su un foglio lì vicino. Scriveva solo numeri, ogni tanto si sentiva tirar su col naso, poi solo silenzio, frusciare di fogli e grattare di grafite sul foglio. Dunque, vediamo. Nel primo catalogo si contano 865 codici in quarto, mentre qua negli altri due, vediamo un po', sono 1505 codici in foglio. In tutto sarebbero 2370, ecco. E un fondo ragguardevole, non c'è che dire. Bravi, bene, molto bene. Il problema però, a guardar bene, c'è. Quale problema? Fecero i due fratelli ansiosamente e quasi all'unisono. Vedete, cari, qui ci sono manoscritti del più vario genere, ma non tutti degni di interesse o di valore. Vi faccio un esempio. E sfogliò su e giù il secondo volume del catalogo per cercare alcune pagine da porre sotto gli occhi dei suoi ospiti. Ecco, guardate qua. 1288 fino a 1304. Vivaldi, Don Antonio, detto il prete rosso, volumi 5 di opere sacre in musica, volumi 8 di concerti a più voci, volume 2 di cantate, volumi 12 di drammi per musica, cioè l'Orlando finto pazzo, atti 3, cantato nel teatro di Sant'Angelo l'autunno 1714, Arsilda regina di Ponto, atti 3 con sinfonia, cantata in Sant'Angelo l'autunno del 1716, Armida al Campo d'Egitto, atto primo e terzo con sinfonia, cantato nel teatro di Sant'Angelo nel Carnevale 1718, Il Tigrane, atto secondo, l'Olimpiade, atti 3 con sinfonia, cantata nel teatro di Sant'Angelo nel Carnevale 1734, La Rosimira, Fedele, atti 3 con introduzione e coro, cantata nel teatro di Sant'Angelo nel Carnevale 1738, Il Giustino, atti 3 con sinfonia e coro, Il Farnace, atti 3 con sinfonia, Il Teuzzone, atti 3 con sinfonia e coro, L'Ottone in Villa, atti 3 con sinfonia, La Tenaide, atti 3, L'Orlando Furioso, atti 3. Ebbene, qui abbiamo 20, 25, 26, 27 tomi pieni di musica di scarso valore. Capirei se ci fossero i salmi del Marcello o le messe del Furlanetto, ma del vecchio prete rosso a chi interessa più nulla al giorno d'oggi? Tutta roba teatrale, fuori moda, di nessun valore. D'accordo, signor Abate, convengo che in mezzo a tanti tomi vi sia pur qualcosa di minore interesse, ma ciò non toglie qualcosa. Il vostro buon avo, il signore l'abbia in gloria, comprava un po' di tutto. Da quel che leggo qua, e non sempre autori di pregio. Comunque sia, voglio essere generoso, vi farò un buonissimo prezzo, il migliore che si possa. Tenete conto, signor Abate, che si tratta pur sempre di una delle più imponenti biblioteche d'Europa e al nome di Sor Anzo avevate a non smembrarla codesta biblioteca importante, avevate a non vendere i libri a stampa prima d'avvisarmi, avevate a non... Canonice era diventato tutto rosso, la voce era diventata di contralto e gli era caduto l'occhialetto. Non v'alterate, signor Abate. Io alterarmi? Io non mi altero mai, disse tornando immediatamente al tono soave di prima. Io sono amico di tutti e tanto più amico della vostra illustrissima casa. 850 zecchini, nulla di più. Oh, 850? State scherzando, vero? In quella biblioteca ci sono codici preziosi d'ogni epoca e d'ogni genere, carteggi importanti fra i maggiori scrittori italiani, testi di poesia e di... 850 zecchini, nulla di più. Ma come potete? Sapete benissimo voi per primo che quei manoscritti... 850 zecchini, nulla di più. Da voi che conoscete bene il valore della nostra famiglia avrei atteso un po' più di pietà, un poco di umanità, tanto più che un sacerdote. Per questo io stimo la vostra illustre prosapia come una cornucopia di virtù, le più esemplari e magnifiche. 850 zecchini, mi pare un buonissimo affare. Che ne dite? Trovate un altro gonzo disposto a darvi di più e poi fatemi sapere. Padroni miei illustrissimi, non vi è altra possibilità, approfittate del mio buon cuore. siete voi che approfittate della necessità dei galantuomini. Non so cosa mi freni da tirarvi sul muso questo volume. Ringraziate che siamo tenuti al rispetto degli accordi stipulati dal nostro zio Marco e alla nostra dignità di gentiluomini, ma un affronto simile non l'avremo mai aspettato da voi. Presto, firmiamo in fretta questa scrittura, che non voglio trattenermi un minuto in più presso questa sanguisuga. Pasquale, servi signori di Carta e Calamaio. I due Corner, segnato il loro nome sul foglio che attestava la vendita della loro biblioteca all'abate canonici, sparirono dal palazzo senza più fiatare, con la fretta con cui erano entrati. L'abate si rinforcò l'occhialetto e stette un po' a rimirare il foglio con le firme che si asciugavano. Poi, fregandosi le mani, chiamò il servo. «Che ne dici, Pasquale? Anche questa volta ho fatto un bel affare. Più di 2000 codici manoscritti al prezzo di 200. E se poi li rivendo, ci prendo 10 volte di più. Siate un portento, signore. Per gli affari e i libri non c'è nessuno che vi sta a fronte. Bene, adesso a tavola!» Mi svela e mi risveglio, oddio, oddio, morire non possio, morire, oddio, il fato spietato mi piace dai cuore. Se parto, se resto, confusa mi perdo, non parlo, la pena, non piace, mi svela e mi risveglio, oddio, oddio, morire non possio, il fato spietato mi nulla che non m'affligge, mi svela e mi risveglio, più non morire non possio, il fato spietato, spietato mi nasce nel cuore. Turbata nella mente, non vede, non sente, rasveglia il timore, il cuore, il cuore confonde, il cuore, concluso il capitolo 7 e quindi finiamo la puntata di oggi della Fuga del Gatto. Vi ringrazio a tutte e tutte che ci siete stati in mia compagnia per questa oretta scarsa. Vi lascio alla programmazione quindi di Radio Wombat, vi ricordo con Tinala, trasmissione di Radio Spore, e a seguire la diretta consueta delle 19. E vi do appuntamento ovviamente, tanto che ci avete da fa, dai, a domenica prossima. 26 aprile, sempre da queste claustrofobiche quarantene che stiamo vivendo, che speriamo finiscano a breve, e vi saluto quindi e vi lascio però con un'ultima aria, l'aria di Marzia, anche questa che abbiamo appena sentito era un'aria di Marzia, ancora lei, della scena seconda dell'atto primo del Catone in Utica, e con questo vi accompagno verso la fine della trasmissione e la prosecuzione con gli altri programmi di Radio Wombat. Ciao ciao! Thank you.